Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi in Italia dobbiamo fare le nostre cose. Dobbiamo mettere a posto il paese come abbiamo promesso e lo faremo. Lo faremo perché ne siamo convinti, perché siamo forti, perché siamo in condizione di farlo. So, un'altra iniezione di grande ottimismo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da parte di Renzi, di grande sicurezza e di grande progettualità e fattività. Come sempre staremo a vedere, aspettiamo gli atti, come dice qualcuno. Ma rispondeva Renzi a una domanda di chi gli chiedeva un commento all'esito delle elezioni in Francia, che sapete preoccupano molti, no? Nelle amministrative in Francia, al primo turno, il Fronte Nazionale, il partito di ultradestra di Marine Le Pen, ha avuto degli ottimi risultati. Un partito molto molto anti-europeista, e quindi questo fa pensare a molti. Vuoi vedere che adesso per le europee il 25 maggio tanti altri partiti anti-europei avranno questo successo. Voi che posizione avete sull'Europa, sull'euro? Siete degli euroscettici oppure ritenete che sotto il grande cappello dell'Europa, del vecchio continente, dobbiamo starci, magari anche cambiando un po' le regole? Quali sono le vostre opinioni su questo tema? C'è sempre la pagina Facebook, per voi lo sapete, di Effetto Notte, oppure ci sono i messaggi al 349 238 6666. Per esempio vedo già Daniele che ha scritto: cara Roberta, ci sarà un voto di protesta anti-Europa anche in Italia, i 5 Stelle trionferanno. Ma siccome abbiamo tantissime cose da dire, vi devo raccontare molte notizie, partiamo subito con i titoli principali. G7 in Olanda, i leader del vertice hanno deciso non ci sarà il G8 che era previsto a Sochi, e Obama chiede nuove sanzioni per la Russia. Il trionfo degli euroscettici in Francia, Renzi raccomanda all'Unione Europea di non sottovalutare il voto di protesta, e Napolitano avverte: attenti a chi attacca l'Europa unita. L'aereo malese è scomparso, è precipitato nell'Oceano Indiano, nessun superstite. Calcio, manca solo la firma, Cesare Prandelli rimarrà CT della Nazionale Azzurra fino al 2016. Iniziamo quindi dal vertice dei grandi del mondo, dal G7 dell'AIA. Si è parlato molto di Ucraina, il presidente Obama ha chiesto di inasprire le sanzioni nei confronti della Russia, ma soprattutto pare si sia arrivati proprio in questi ultimi momenti alla decisione di non fare il prossimo vertice del G8 a Sochi, ma di farlo poi a Bruxelles, quindi eliminando la Russia. E capiremo poi quali sono state le conclusioni di questo vertice più tardi dall'inviato del Sole 24 Ore. Al G7 comunque era presente naturalmente anche Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio, è intervenuto anche sull'esito delle elezioni in Francia, così come ha fatto indirettamente il Capo dello Stato Napolitano. Una frenata, anche se con molti distinguo, sul voto in Francia e sull'avanzata dell'estrema destra di Marine Le Pen. Il primo ad intervenire è il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla commemorazione delle Fosse Ardeatine. Più che uno sguardo al passato, è un monito verso il prossimo futuro. Bisogna sempre ricordare a tutti quello che si è vissuto in Italia e in Europa, e che non si può giocare con queste posizioni che tendono a screditare il nostro patrimonio di lotte per la libertà. Nel pomeriggio interviene dall'AIA anche il Premier Matteo Renzi. L'Europa deve prendere atto che è molto forte, diffuso in tutti i paesi, un sentimento di contestazione, di antipolitica, che in parte deriva anche da un forte sentimento di contestazione verso le istituzioni europee. No però del Movimento 5 Stelle ad una possibile alleanza con il Front National. Marine Le Pen non capisce perché Beppe Grillo la odi, ma dal Movimento continuano a ribadire che sono post ideologici. La Lega invece combatte insieme a Le Pen contro l'euro, lo assicura il segretario Matteo Salvini. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre dall'Olanda, Renzi, che questa sera farà ritorno in Italia, ha esortato a smetterla col provincialismo. C'è grande attenzione nei nostri confronti, ha aggiunto: l'Italia è rispettata e apprezzata a livello mondiale. L'Italia sta lavorando, c'è una grande curiosità sulle riforme che stanno andando avanti. E oggi anche il presidente di Confindustria Squinzi ha assicurato sostegno all'esecutivo. La settimana destinata a mettere nero su bianco l'intervento IRPEF in busta paga in un vertice molto atteso sulla spending review si apre con una nuova polemica tra governo e parti sociali. Al centro della discussione la concertazione, su questo pesano le parole del fine settimana del Premier che alle critiche di sindacati, di imprenditori, in particolare di Camusso e Squinzi, aveva replicato parlando di strana coppia di asse conservativo. Oggi con toni più soft sull'argomento interviene il ministro del lavoro Poletti che dice: è nostra intenzione confrontarci e dialogare, ma alla fine il governo decide e si prende le sue responsabilità. Credo che anche le organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali dall'altro versante debbano interrogarsi se le loro modalità siano ancora quelle più congrue, quelle più adatte. Pronta la replica dal sindacato, le posizioni di Renzi indeboliscono la democrazia, dice Camusso, CGIL che critica poi il decreto lavoro, ma su questo il ministro Poletti avverte: dialogheremo con le commissioni e il Parlamento, ma se qualcuno pensa di stravolgere quello che abbiamo fatto, ci opporremo con tutte le forze. Da Confindustria il presidente Squinzi commenta: mi sembra che questa contrapposizione che sta montando in questo momento sia essenzialmente mediatica e non corrisponde certamente alla nostra visione. Posso garantire fin d'ora, spiega il leader degli industriali, che saremo i sostenitori più leali del governo in attesa delle riforme e di vederle applicate. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E un appello all'esecutivo, al governo, è arrivato anche dal presidente della Conferenza Episcopale, il cardinale Angelo Bagnasco. Non ci si può illudere che tutto sia nuova portata di mano come prima. Grande impegno viene profuso dai responsabili della cosa pubblica, ma i proclamati segnali di ripresa non sembrano dare finora frutti concreti sul piano dell'occupazione, che è il primo urgentissimo obiettivo. Ogni passo è benvenuto, ma l'ora esige una sempre più intensa e stabile concentrazione di energie, di collaborazioni, di sforzi congiunti senza distrazioni, notte e giorno. Ogni atto irresponsabile, da qualunque parte provenga, passerà al giudizio della storia. Passiamo alla cronaca. 4 arresti ci sono stati nell'ambito dell'indagine sul Sistri. 2 ex dirigenti del gruppo Finmeccanica sono ai domiciliari. Finanziato e mai entrato a regime il sistema di telerilevamento dei rifiuti Sistri, da anni ormai è sotto la lente della Procura di Napoli. La Guardia di Finanza ha eseguito 4 ordinanze di custodia ai domiciliari in cui sono contestati i reati di associazione per delinquere e corruzione. Le indagini hanno ricostruito una rete di rapporti tra la controllata di Finmeccanica, a cui era stata affidata la realizzazione del Sistri, la Selex Service Management, e altre società affidatarie e compiacenti. Un giro di false fatture servito, secondo i PM Maresca, Giordano e Del Gaudio, a creare fondi neri per pagare tangenti ai vertici di Finmeccanica e probabilmente a sponsor politici. 2 ex dirigenti del gruppo ora sono ai domiciliari: Lorenzo Borgogni, ex direttore centrale relazioni esterne di Finmeccanica, e Stefano Carlini, ex direttore operativo della Selex Service. Uno degli imprenditori arrestati, Vincenzo Angeloni, ex deputato di Forza Italia, era diventato una sorta di braccio operativo dei vertici del gruppo. Si occupava della richiesta e della riscossione illecita di somme di denaro. Uno degli episodi oggetto delle indagini riguarda una tangente da 4 milioni in parte consegnata in contanti presso gli uffici di Finmeccanica. Per l'ex presidente del gruppo Guarguaglini non è stata concessa dal GIP la misura cautelare richiesta dalla procura. La sua casa a Roma è stata perquisita. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. C'era qualche cimice evidentemente nel sottofondo di questo servizio. L'inchiesta adesso sulle infrastrutture lombarde. Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP l'ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde, Antonio Rognoni, arrestato, lo ricordate, giovedì scorso nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano su presunte irregolarità nell'affidamento di incarichi e consulenze relative ad appalti in Lombardia di opere pubbliche. Poi vedremo a che punto è questa inchiesta. I PM di Varese, Agostino Abate e Sara Arduini hanno depositato la richiesta di fissazione dell'udienza preliminare di rinvio a giudizio per 8 carabinieri e agenti di polizia in relazione al caso di Giuseppe Uva, il giovane morì in ospedale nel giugno 2008 dopo aver trascorso parte della notte nella caserma dei carabinieri. ed è chiusa l'inchiesta sulla morte di Silvia Caramazza, 39 anni, uccisa e trovata in un freezer a Bologna il 27 giugno. La PM Gabriella Tavano ha mandato un avviso di fine indagine a Giulio Caria, suo compagno, è accusato di omicidio aggravato da stalking, iniziato a ottobre 2011, e di aver agito con crudeltà e occultamento di cadavere. Dice la PM, Caria ha inferito rabbiosamente con particolare efferatezza sulla vittima fino a massacrarla, manifestando assenza completa di ogni sentimento di pietà e di compassione. Contestate anche le minacce a testimoni con lettere spedite dal carcere, dove tuttora si trova, il furto di bancomat e carta di credito della convivente. Ancora sulla cronaca, è stato salvato per miracolo l'ex tastierista dei Modà, del gruppo musicale, che la notte scorsa ha tentato il suicidio dopo essersi liberato di un braccialetto elettronico. Era ai domiciliari accusato di molestie sui minori. L'hanno individuato grazie all'input del braccialetto elettronico, manomesso con un cacciavite. Paolo Bovi, 40 anni, ex fonico e fondatore dei Modà, se n'era liberato per poi tentare il suicidio nella propria auto nella notte tra sabato e domenica. I carabinieri di Cassano d'Adda, in provincia di Milano, l'hanno trovato in stato di semi-incoscienza. Aveva collegato una canna di gomma al tubo di scappamento. È stato ricoverato in ospedale e, una volta dimesso, trasferito nel carcere di San Vittore con l'accusa di evasione. Era agli arresti domiciliari per i presunti abusi su 4 minori tra i 13 e i 16 anni, conosciuti nella parrocchia milanese dove era cresciuto e dove negli anni aveva assunto il ruolo di educatore animatore. Le molestie di lieve entità, cioè senza rapporti consumati, sarebbero avvenute all'esterno della struttura. Uno dei sacerdoti aveva già ritenuto inappropriati i comportamenti dell'ex tastierista dei Modà, allontanato dopo che uno dei ragazzi aveva rivelato le attitudini del musicista. Le denunce dei familiari hanno attivato le indagini nel 2013, quindi il fermo il 14 gennaio scorso. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Vi do adesso un'agenzia invece che riguarda la politica. Forza Italia, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, sulla base dell'articolo 23 dello statuto, ha nominato i membri del comitato di presidenza di Forza Italia, anche se non vengono precisati i nomi, qua non si parla di nomi. Adesso all'estero, è finito nel peggiore dei modi il giallo che per due settimane ha accompagnato il volo del Boeing 777 della Malaysian Airlines. L'aereo scomparso è stato perduto e non ci sono sopravvissuti. Non lasciano scampo le parole del premier malese Naib Razak. Le ha pronunciate in una conferenza stampa a Kuala Lumpur, spiegando che il Boeing 777 della Malaysian Airlines, scomparso l'8 marzo scorso, è precipitato in mare nel sud dell'Oceano Indiano. Poco prima i parenti dei 239 passeggeri avevano accolto l'annuncio con scene di disperazione e rabbia, dopo due settimane di notizie contrastanti, di speranze accese e poi deluse. Alla conclusione dell'inabissamento in mare, ha spiegato il premier malese, si è arrivati grazie all'AIB, l'agenzia del Ministero dei Trasporti di Londra che indaga sui disastri dell'aviazione civile, e all'Inmarsat, compagnia britannica di telecomunicazioni satellitari, che hanno fornito dati e analisi. L'ultima posizione dell'aereo è stata individuata nel mezzo dell'Oceano Indiano, a ovest di Perth, capitale dello stato dell'Australia occidentale, ha precisato Razak. Si tratta di un luogo remoto, aggiunto, lontano da qualsiasi possibilità di atterraggio. Su posto dovrebbe arrivare nelle prossime ore una nave della Marina Militare Australiana che tenterà di recuperare gli oggetti in mare avvistati dai satelliti. Ancora sconosciuti i motivi del disastro, si ipotizza un incendio a bordo, un guasto, ma ancora non escluso il gesto criminale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine arriviamo alle notizie di calcio, manca solo la firma, ma ormai è certo, Cesare Prandelli rimarrà il CT della Nazionale Azzurra fino al 2016. Si era parlato di lui come super commissario di tutte le nazionali, lo si era accostato ai grandi club italiani, si era ipotizzato anche che potesse divenire l'ennesimo tecnico azzurro all'estero, magari a Londra, sponda Tottenham. Niente di tutto questo. Comunque vada, in Brasile Cesare Prandelli resterà saldo sulla panchina della nazionale fino agli europei in Francia del 2016. Il tecnico di Orzi Nuovi dovrebbe firmare il contratto nelle prossime settimane, secondo quanto fa sapere la Federcalcio, mettendo fine dunque a una telenovela che si trascinava da tempo. Un contratto biennale per reciproca volontà delle parti. Da un lato garantirà il lavoro di Prandelli fino a Euro 2016, a prescindere dal risultato dei prossimi campionati del mondo. Dall'altro resterà in vigore fino alla scadenza del mandato presidenziale di Giancarlo Abete. Con la federazione e con il Club Italia, Prandelli concorderà il programma tecnico della nazionale. Primi obiettivi: armonizzare al meglio il calendario di gare ufficiali e amichevoli e il lavoro degli azzurri. Un vero dialogo con la Lega Calcio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordo che domani torna il campionato col turno infrasettimanale della 30ª di Serie A. Si riparte con Roma-Torino poi mercoledì il resto del programma, giovedì il posticipo Inter-Udinese. Mi fermo qui anche con il riassunto della giornata. Prima di dare la linea alla viabilità, leggo alcuni dei vostri tanti messaggi. Per esempio Giuseppe da Udine scrive: l'euro per l'Italia è stata una catastrofe, in 10 anni siamo diventati poveri, Prodi dovrebbe spiegare perché ci ha svenduto. E poi invece Filomena dice: viva l'Europa ma non quella della Merkel. E ancora Enzo da Ravenna: in questo momento l'Europa è come una classe nella quale gli studenti non si sopportano l'un con l'altro, i più bravi odiano i meno bravi non ascoltano i più bravi, i professori danno buoni e cattivi voti. Piuttosto che essere una classe bisogna essere una squadra con degli ottimi allenatori e dirigenti. Il segnale è arrivato, bisogna cambiare. Eccoci insieme, stavo guardando ancora i vostri messaggi, potete continuarli a scrivere sia alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi al 349-238-6666 sulla vostra posizione rispetto all'Europa, all'euro, all'euroscetticismo dopo soprattutto il voto in Francia. Ma adesso, prima di salutare il primissimo ospite di questa sera, vi ricordo, se aveste acceso la radio in questo momento, quali sono stati i fatti principali della giornata. L'ira di Obama al G7, Mosca dice fuori dal G8, cancellato quindi Sochi, il vertice di Sochi a giugno, ci sarà il G7 a Bruxelles, pronti a sanzioni più dure, dice Obama, e praticamente il vertice dell'AIA è stato un atto di accusa a Putin. Il trionfo degli euroscettici in Francia, Renzi raccomanda all'Unione Europea di non sottovalutare il voto di proteste, Napolitano avverte: attenti a chi attacca l'Europa unita. L'ero malese scomparso, è precipitato nell'Oceano Indiano, queste le conclusioni, purtroppo nessun superstite. E per il calcio manca solo la firma, Cesare Prandelli rimarrà tecnico della nazionale azzurra fino al 2016. E saluto Alberto Rioli, vice direttore del Sole, nonché scrittore. Alberto. Beh, non esageriamo, autore, via. Buonasera a tutti. Niente po' di meno, è venuto per te nella sede del Sole 24 Ore il presidente di Confindustria Squinzi alla presentazione del tuo libro, Figli di papà a chi? Dove racconti la storia del movimento che ha cambiato Confindustria, anche lì partendo dai giovani. Poi ne parleremo, però intanto Squinzi, lo facciamo sentire tra pochi istanti, Squinzi ha detto, dopo le polemiche di questi giorni, nel fine settimana, no, c'erano state un po' di tensioni tra Renzi e le parti sociali, quindi Renzi da una parte e Confindustria e sindacati dall'altra, aveva detto lui la concertazione, insomma l'avevano già detto un'altra volta Alberto, non interessa, dice, ci piacerebbe che si trovassero dei punti d'incontro, però alla fine decidiamo noi. Aveva parlato di Confindustria e del sindacato come, e della Camusso come di una strana coppia dell'asse conservativo, no? Sì, esatto, ha usato delle espressioni un po' forti, diciamo la verità, ha parlato di palude, ha parlato della strana coppia. Lui sta teorizzando una nuova forma di ideologia, che è quella della cosiddetta disintermediazione, cioè non vuole più avere a che fare con quelle che erano le rappresentanze dei cosiddetti corpi sociali intermedi della società italiana, tra questi le rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, classicamente Confindustria e sindacati. Sì. E lui vuole scavalcarli, così come in politica si rivolge direttamente ai cittadini guardando in camera, come si suol dire, nel video, e facendo la battuta giusta, e lo stesso vuole fare rivolgendosi ai lavoratori e a chi vota, però dimentica di come è fatto il paese. Effettivamente il paese ha bisogno di un filtro per grandi aggregati, altrimenti c'è una disgregazione, c'è un pullulare di piccoli egoismi che un uomo solo al comando poi alla lunga non riesce a governare. Quindi tu la vedi criticamente questa, perché alcuni dicono ecco, ci vuole uno che finalmente decida, non si faccia porre dei veti, vada per la sua strada, invece tu dici è giusto che ci sia questa... No, mescolo le due cose, è assolutamente giusto. Concertazione era nata in modo molto positivo ai tempi di Ciampi e ha risolto i problemi dell'Italia, ha fatto una grandissima azione di supplenza a una politica che era devastata dagli avvisi di garanzia e c'erano 2/3 del Parlamento che erano coinvolti in Tangentopoli. Il paese non ha saputo far altro che chiedere il governo di un tecnico, cioè Carlo Azeglio Ciampi, e mettere intorno a un tavolo le parti sociali chiedendo loro enormi sacrifici per poter riportare l'economia in uno stato compatibile con le normali variabili macroeconomiche. Questo è stato fatto, e se non ci fosse stata la concertazione in quel momento l'Italia sarebbe andata a rotoli. Poi è diventato un esercizio accademico un modo per creare quelli che gli americani chiamano i veto player, cioè dei soggetti che hanno la capacità di dirti continuamente di no e non ti fanno andare avanti le cose. Questo è una derivazione sbagliata della concertazione, tanto è vero che si era parlato di trasformarla nel metodo del dialogo sociale, che è quello che si usa in Europa, cioè un organo esecutivo, un governo, sente le parti legittimamente rappresentanti dei lavoratori e delle associazioni industriali, si fa dire qual è la loro posizione e poi decide sulla base di questa consultazione, tentando di avvicinare al massimo il consenso delle parti in gioco. E il problema è che questo è un metodo razionale che porta a una decisione e a una responsabilità finale dell'esecutivo. L'idea che l'esecutivo fa quello che gli pare, indipendentemente dalla consultazione delle parti più o meno coinvolte, insomma, un pochettino più rischioso. Senti, allora dicevo, ascoltiamo Quincy che cosa ha detto oggi, ha un po' ammorbidito questa tensione. Il governo Renzi e Matteo Renzi, se saranno capaci di fare le riforme, no? Troveranno in noi i sostenitori più leali e più decisi, perché questo paese ha bisogno di riforme per ritrovare la crescita, e questa l'unica preoccupazione di Confindustria è questa. Quindi non mi sembra che questa contrapposizione che si sta montando in questo momento sia essenzialmente mediatica e non corrisponde certamente alla nostra visione. Capito, Alberto Rioli diceva che più una questione mediatica, che non è vero che c'è questo conflitto e che comunque la Confindustria sosterrà lealmente il governo. Sì, la frase doppia, diciamo, se Renzi sarà capace di fare le riforme noi saremo i più sostenitori, più leali, c'è una prima parte e una seconda parte, le due cose sono, diciamo, creano un equilibrio che non è però indifferente tra la prima e la seconda parte, ovviamente. Mi è sembrata una frase di grande buonsenso, da persona di buonsenso, quale il Presidente Squinzi è, chiaramente, ed è una persona molto concreta e pragmatica, ha sempre orientato la Confindustria a richiedere delle cose concrete per portassero a casa le riforme che servono a far ripartire l'economia, quindi questo è quello che interessa la Confindustria Squinzi. Il resto poi è chiaro, diventa un'escalation di battute in una politica fatta di tweet e di piccoli cinguetti, di titoli corti, di cose così, è chiaro che tutto diventa esasperato e noi, come dire, operatori dell'informazione a volte ci andiamo a nozze, però poi la realtà è un'altra. Senti, operatore dell'informazione, allora hai scritto questo libro Figli di papà a chi? Dove racconti la storia del movimento che ha cambiato Confindustria, cioè dei giovani imprenditori a cavallo tra gli anni 50 e 60 che volevano portare un po' lo spirito del tempo in Confindustria, anche se poi anche quelli poi saranno invecchiati, no? Però, sì. Però Squinzi oggi, se non sbaglio, ha detto, mi auguro che, proprio in virtù del tuo libro, mi auguro che il tratto generazionale, quindi facendo riferimento sia il tuo libro sia la questione Renzi, che il tratto generazionale che di questi tempi sembra la cura di tutti i mali non si fermi al mero dato anagrafico ma attenga all'approccio di fare le cose, alla valorizzazione del talento e del merito, attenga insomma alla sostanza e non solo la forma. È giusto, è sicuramente il tema più responsabilizzante adesso per chi fa il giovane imprenditore oggi. Allora, quando Lorenzo Vallagrino Gancia a fine degli anni 50, inizio anni 60 voleva convincere Costa ad aprire la Confindustria alla società, a creare un imprenditore amico della cittadinanza, un po' più visibile, con delle responsabilità sociali, mentre il metodo con cui allora si governava la lobby di Confindustria era quello cosiddetto della torretta, che è la torretta del Palazzo delle Generali in Piazza Venezia a Roma, dove si facevano delle riunioni riservate tra la leadership di Confindustria degli anni 50 e i vari capi corrente del partito, per lo più democristiani, ai quali veniva garantita copertura concreta, diciamo così, alle loro azioni qualora fossero state in sintonia con le esigenze di lobbying della Confindustria di allora. Questo non piaceva ai giovani che nel frattempo vedevano un grande fermento nella società, cominciavano a sentirsi quelli che poi saranno chiaramente sarà il ciclone del 68, ecco, quindi una presenza pubblica era fondamentale, anche perché il pensiero imperante in quel momento vedeva nell'industria, nell'imprenditore un nemico, non un soggetto che avesse un valore sociale e fosse un portatore di valori positivi per l'emancipazione e la modernizzazione della società. Questo era il primo obiettivo dei giovani imprenditori di Lorenzo Vallarino Gancia. Oggi quell'obiettivo chiaramente è più che raggiunto, l'idea della cultura d'impresa come cultura positiva della nostra epoca è acquisita. Il problema adesso una volta che i 30-40 anni hanno preso il potere, è poter rispondere alla domanda che cosa ce ve ne fate, per fare cosa, in modo sensato. Ecco, bisogna avere un'agenda di priorità da mettere in campo. Devo dire il lungo lavoro fatto dai giovani imprenditori in più o meno una cinquantina d'anni di vita del loro movimento è pieno di contenuti riformisti che poi hanno punteggiato bene o male l'agenda riformista mancata, ahimè, del nostro paese, perché si parla delle riforme elettorali già dagli anni 90, inizio anni 90, si parla dei contenuti della legalità, dell'economia della partecipazione al capitalismo democratico, del Mediterraneo come area bacino naturale per esplodere i business italiani. E insomma, è dell'euro e della moneta unica addirittura come sogno, quando ancora non c'era nemmeno l'idea di fare la moneta unica. Anche se adesso vedo un sacco di messaggi critici che arrivano sulla moneta unica e sull'Europa, poi ne parleremo. Comunque, grazie Alberto Rioli, tutto questo lo potete trovare in Figli di Papà, a chi l'ultimo libro di Alberto. Grazie. Ciao, buona continuazione. Poi invece ci spostiamo sul vertice del G7 con Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Buonasera a voi. Senti, c'è stato poi anche un incontro così, non so se estemporaneo, tra Renzi e Obama. Obama gli ha detto: quando ho iniziato io a fare politica avevo i capelli neri, quindi vuol dire, ha lanciato un messaggio a Renzi, ha detto che la politica stressa, insomma. Ce lo ricordiamo nel 2008, nel novembre 2008, in effetti era qualche anno fa, siamo già al secondo mandato e aveva i capelli più neri, come a dire: tu stai cominciando e avrai tempo anche tu, se la tua, come dire, la tua vita politica sarà lunga come la mia, di iniziare per le preoccupazioni che impegni del genere. Potresti diventare canuto, insomma. Sì, esatto. Senti, però poi Obama gli ha anche detto: non vedo l'ora, perché verrà tra pochi giorni, no? Obama in Italia ha detto: sì, non vedo l'ora di mangiare italiano. Non vedo l'ora è un po' una traduzione, come dire, un po' un wishful thinking che noi mettiamo, come esagerando un po', il look forward, che insomma è una cosa anche abbastanza formale degli inglesi e degli americani, però sì, effettivamente c'è questa attenzione, questa curiosità, direi, più che altro da parte di tutti, e segnalata anche negli incontri bilaterali che Renzi ha avuto con il primo ministro giapponese Shinzo Abe, no? La Abenomics, questo nuovo successo dell'economia giapponese dovuto un poco all'aumento di massa monetaria e quindi che punta molto sulla crescita e l'occupazione, con il primo ministro canadese Harper, senza preoccuparsi di creare disagi e gaffe diplomatiche. Renzi è rientrato questa sera a Roma lasciando la Mogherini qui per tutto non il lavoro. Non ha neanche cenato, no? Ha detto: troppi dossier da esaminare, la presa di sicurezza è partita. In effetti l'Italia è l'unico dei paesi europei del G7 ad aver disertato, come dire, questo aspetto sociale, che però è anche utile per stringere poi rapporti di così confidenza e di amicizia con i grandi della terra, che è questa cena dai reali di Olanda. È un rito immancabile. Renzi c'ha da fare, insomma, abbiamo capito questo, sì. Gerardo. Senti, sentiamolo anzi in una delle affermazioni forti che ha fatto oggi, in un passaggio di quello che ha detto dopo ai giornalisti. Noi in Italia dobbiamo fare le nostre cose, dobbiamo mettere a posto il paese come abbiamo promesso, e lo faremo. Lo faremo perché ne siamo convinti, perché siamo forti, perché siamo in condizione di farlo. Però contemporaneamente dobbiamo anche chiedere che il semestre europeo a guida italiana sia una grande occasione, non per rimettersi a discutere sugli 0, l'Italia rispetta tutti i vincoli e i parametri, così lo ridiciamo per l'ennesima volta, ma perché finalmente l'Europa mette al centro della propria azione la crescita, la lotta alla disoccupazione, il recupero e il riavvicinamento dei cittadini con le istituzioni. Insomma, ecco perché ha saltato la scena, ha detto: noi dobbiamo fare cose concrete, dobbiamo mettere a posto l'Italia e ce la faremo. Quindi la fattività di Renzi e la sua velocità. Senti, poi una cosa grossa però, Gerardo, che alla fine del vertice di oggi all'Aia è stato deciso, soprattutto per spinta di Obama, che si annullerà il G8 di Sochi, no? Per punire, sì, la Russia. Era già nell'aria questa, insomma, il G7 è sempre rimasto in vita per le questioni finanziarie, si riuniscono sempre i ministri economici e finanziari del G7, però ormai da molti anni il G8 politico aveva inglobato anche la Russia, e questo era, come dire, il coronamento della fine della guerra fredda, e quindi nel novero dei grandi paesi industrializzati doveva far parte anche la Russia. Beh, insomma, questa vicenda della crisi ucraina ha segnato talmente in maniera così forte una rottura con l'Occidente, soprattutto con gli Stati Uniti, con l'Europa, anche se ci sono grandi divisioni ancora in Europa, dove siamo più cauti anche per i problemi economici che ci legano alla Russia dal punto di vista energetico. Beh, insomma, adesso questo G8 sembra tramontare definitivamente come formato. Il G8 non si terrà a Sochi e molto probabilmente si terrà a Bruxelles. In un primo momento si era detto Londra, anche perché derivamo dall'anno scorso, il 2016, era l'anno della presidenza inglese, no? In Irlanda, e adesso quindi si era pensato di fare il nuovo G8 sempre a Londra, ma si è voluto naturalmente trovare una sede neutrale e si è identificata questa con Bruxelles. Tra l'altro vedo che la Crimea, appunto appena annessa alla Russia, questo che ha causato tutto questo clima da guerra fredda, in Crimea già il rublo è ufficialmente in circolazione come nuova valuta ufficiale, quindi pensate insomma come si va velocemente. Gerardo Pelosi, io ti ringrazio, buon lavoro allora. Ciao Gerardo. Ciao. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità. Vedo anche che Mosca dice siamo fuori dal G8, non ci sarà Sochi, non è una tragedia. Ecco, per il momento la prendono così, almeno in apparenza. Ancora uno dei tanti messaggi sull'Unione Europea. Tommaso dice Movimento 5 Stelle a tutta con Forza Italia di Berlusconi, Dudu e Pascale, PD di Renzi, già cucinato a dovere, l'unica soluzione rimane il Movimento 5 Stelle. A proposito di Europa e euroscetticismo, ma tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, abbiamo parlato di vari argomenti, tantissimi i temi di oggi, adesso tra poco vi ricorderò i principali, poi saluterò una inviata del Sole 24 Ore che ci aggiornerà su una faccenda molto particolare, grossa, che ha colpito la Lombardia, in particolare i vertici, gli ex vertici della regione Lombardia. Ancora tanti messaggi da parte vostra sulla pagina Facebook di Effetto Notte, poi cercherò di leggerne qualcuno, ma intanto vi dicevo i fatti principali. Al G8 di Dell'Aia, l'ira di Obama, Mosca fuori dal G8, dice cancellato Sochi a giugno, il G7 si terrà probabilmente a Bruxelles, pronti a sanzioni più dure, fa sapere il presidente americano. Al vertice Dell'Aia è stato praticamente un atto di accusa a Putin, e sempre in quel vertice Renzi ha dichiarato rimetteremo a posto l'Italia, avanti le riforme, sarà bellissimo smentire gli uccelli del malagurio. Il voto francese spaventa l'Europa, Marine Le Pen chiama gli euroscettici all'unità, no di Napolitano, dice basta con gli attacchi all'Unione Europea. Addio al volo MH370, è precipitato nell'Oceano Indiano, l'annuncio della Malaysia Airlines, la compagnia avvisa i familiari con un SMS. E manca solo la firma per quanto riguarda il calcio di Cesare Prandelli, che rimarrà così il tecnico della Nazionale Azzurra fino al 2016. Parlavamo già negli ultimi giorni della scorsa settimana, se non sbaglio già venerdì, di questa inchiesta che si è abbattuta sulla regione Lombardia, su Infrastrutture Lombarde, il colosso regionale degli appalti che era stato varato al tempo in cui era presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni. È una società controllata totalmente dalla regione, e l'inchiesta ha portato all'arresto di 8 persone, tra cui Antonio Rognoni, direttore generale dimissionario della società. E tra le cose che aveva scritto il GIP, il giudice per indagini preliminari, emerge la piena consapevolezza di tutte le parti in causa di agire in un ambito di diffusa illegalità, compresi i vertici della regione Lombardia. Ne avevamo parlato con Sara Monaci. Ciao Sara. Ciao, buonasera. Vi dicevo, inviata del Sole 24 Ore, che aggiornamenti ci sono? Intanto è stato sostituito Rognoni? Sì, lo sbaglio. Non Rognoni. È stato sostituito Alberto Porro, direttore dei lavori di Expo, sì, ma manager di Infrastrutture Lombarde, perché ricordo l'inchiesta non riguarda Expo ma riguarda Infrastrutture Lombarde. Esiste però, diciamo, un contatto indiretto, perché i manager, i professionisti legali indagati avevano anche degli incarichi nella società Expo gruppo, in particolare appunto Alberto Porro, indagato per associazione a delinquere e truffa, che è stato sostituito questa mattina con un nuovo professionista scelto da Maroni, e si chiama Robuschi ed è il collaboratore stretto sempre di Porro, ed è questo anche che ha creato qualche critica, proprio perché la continuità delle opere è stata assicurata, ma sicuramente c'è anche chi preferiva un nome completamente diverso. Che ci fosse discontinuità anche nelle modalità. Sentiamo un attimo, Sara Monaci, scusami se ti interrompo, sentiamo che cosa ha detto fra le varie cose oggi Maroni, presidente della Regione Lombardia. Ci sono allora due questioni. La prima è quello che riguarda Infrastrutture Lombarde, l'organizzazione che è stata colpita dall'inchiesta in corso, e di quello mi occupo io come Regione Lombardia. Domani riferirò in Consiglio regionale. E poi c'è la questione di garantire la continuità dei lavori di Expo. Noi abbiamo indicato questa mattina al commissario Sala il nome della persona che prenderà il posto dell'attuale direttore dei lavori, Porro, che è stato interdetto dalla sua attività e che è uno dei suoi più stretti collaboratori, un ingegnere, Diego Riccardo Robuschi. Ecco, come dicevi tu, no? È un suo stretto collaboratore, sì. E quindi si preferiva che fosse preso qualcuno proprio estraneo. Beh, c'è chi ha sollevato, diciamo, questa anche in conferenza stampa, questa sottolineatura. Ovviamente Robuschi non è indagato, quindi certo. Sottolineiamo il fatto che si tratta di una persona che ha la piena fiducia delle istituzioni e delle società Expo. È una questione di opportunità politica quella che è stata sollevata. Dopodiché i lavori proseguono, lo hanno ribadito tutti quanti, e in un vertice che questa mattina si è tenuto nella società Expo con il ministro alle infrastrutture, il prefetto di Milano Tronca e appunto le istituzioni che rappresentano l'Expo, quindi il sindaco di Milano Giuliano Pisapia e Maroni, governatore della Lombardia. Ovviamente hanno ribadito che l'inchiesta non fermerà i lavori, anche perché l'inchiesta non riguarda la questione dei lavori di Expo. Certo è che la situazione è scivolosa, perché un'inchiesta nel bel mezzo dei lavori a solo un anno dall'apertura dei battenti di Expo rischia di rallentare i lavori, però oggi sono state date delle rassicurazioni in questo senso. Per quanto riguarda l'inchiesta, e in senso stretto, oggi sono partiti gli interrogatori con il giudice per le indagini preliminari. Si tratta degli interrogatori di garanzia, soprattutto per quelli che sono appunto finiti in custodia cautelare, in carcere o ai domiciliari. Quindi è stata la volta del DG rimosso, anzi dimissionario in realtà, ma che continuava ad essere infrastrutture, Rognoni, che però si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre Perez, il capo dell'ufficio gare, anche lui in custodia cautelare in carcere come Rognoni, ha risposto rilasciando delle dichiarazioni spontanee, e il suo legale ha sottolineato come l'accusa di avere affidato in modo improprio le gare, aggirando le regole, spezzettando gli importi in modo da non essere costretto a fare delle gare pubbliche, erano motivate dalla necessità di andare rapidi e quindi non ci fosse in realtà un problema di amicizie e di affidamenti dati amici degli amici, ma fosse soltanto la risposta ad un'esigenza di velocità che gli appalti chiedevano. E domani si proseguirà con i nuovi interrogatori di garanzia. Grazie Sara Monaci, grazie dell'aggiornamento. E adesso invece ritorno ancora sui tanti messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito della vostra posizione rispetto all'Europa, all'euro. Domenico dice: sicuramente il sistema Europa va cambiato e rivisto, purtroppo i politici tradizionali fanno finta di non accorgersene, la gente stufa, i conti si faranno a fine maggio, sapete che appunto si vota il 25. Fabio: il Movimento 5 Stelle dilettanti allo sbaraglio, io ti consiglio, dice l'altro ascoltatore, di spegnere la TV, di informarti come si deve, magari provando a ragionare ragionare col proprio cervello. Spegni la TV, allora io dico accendete la radio, Radio 24, soprattutto qui a effetto notte. Vittorio, cresce in Europa il partito degli euroscettici? Non sarà che aver trasformato la moneta unica da mezzo a fine delle politiche europee ha sepolto l'idea dei padri fondatori di un'Europa dei popoli? Queste sono le tante vostre opinioni. Adesso però, se qualcuno di voi sta viaggiando, ci sono gli aggiornamenti per chi è alla guida e poi... poi parleremo proprio di questo, parleremo di Europa, parleremo di quello che è successo in Francia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, adesso vi ricordo quali sono stati i fatti principali della giornata e subito poi saluto l'ospite, anzi è un collega del Sole 24 Ore, però vi ha detto il G7 in Olanda che c'è stato oggi, i leader del vertice hanno deciso, non ci sarà il G8 che era previsto a Sochi, una ritorsione contro la Russia, Obama chiede nuove sanzioni per Mosca. Il trionfo degli euroscettici in Francia, Renzi raccomanda all'Unione Europea di non sottovalutare il voto di protesta e Napolitano avverte attenti a chi attacca l'Europa Unita ricordando il passato. E poi la triste fine dell'aereo malese scomparso e precipitato nell'Oceano Indiano, nessun superstite. Marco Mussadè. Ciao Marco. Buonasera. Corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, quindi sai bene raccontarci che cosa è successo questo trionfo alle elezioni amministrative francesi del Fronte Nazionale Antieuropeista, l'ultradestra di Marine Le Pen, e in testa in varie città importanti. Certo, ci sarà poi il secondo turno domenica, però questo che cosa ha detto alla Francia, Marco, e non solo alla Francia? Ma direi fondamentalmente due cose, che c'è un malessere sociale diffuso con ormai da tempo tassi di disoccupazione molto alti, crisi aziendali una dietro l'altra, una politica che dà l'impressione di non riuscire a trovare una strada, una soluzione, un'idea e una visione del futuro, e dall'altra voto che probabilmente vedremo ancora più chiaramente alle europee del 25 maggio, c'è sicuramente, come succede nei momenti di grande difficoltà, l'idea che recuperare in qualche modo il passato di un paese in grado di autogestirsi senza dover dipendere da delle autorità lontane e poco sensibili ai malesseri sociali di un paese si traducono poi in un voto come questo. Senti, ma esattamente Marine Le Pen, che è riuscita a fare quello che il padre non era riuscito a fare, no? Jean-Marie Le Pen. Lei ha fatto un eccellente lavoro di, diciamo, riconversione in qualche modo del partito. Che meno razzista, meno xenofobo, no? Sì, ecco, meno attenzione, meno ossessione per i temi dell'immigrazione e della sicurezza, più attenzione per i temi economici e sociali, svecchiamento del partito dove l'età media è molto diminuita. Ecco, un lavoro molto sull'immagine, molto sulla percezione. Il partito nella sua anima, nel suo profondo, rimane un partito fondamentalmente intollerante nei confronti delle diversità di ogni tipo, quindi il core business del partito non è sostanzialmente cambiato, però sicuramente lei è stata molto brava nel riuscire a costruire l'immagine di un partito vendibile anche elettoralmente all'opinione pubblica, insomma alla defascistizzazione. Senti Marco Mussanè, però come qualche analista già osserva, ma non è che poi questo partito, facendo successo, andando ad amministrare davvero per davvero adesso alcune città importanti, si istituzionalizza e finisce poi con l'essere messo alla prova? Qualcuno lo paragona al Movimento 5 Stelle, avranno voglia di prendersi la responsabilità? Beh, sicuramente questa è la nuova sfida che è sul tavolo della Le Pen. La prima è stata appunto quella di cambiare il partito e di venderlo all'elettorato. Adesso la nuova sfida sarà quella di dimostrare che il partito di lotta e di protesta è in grado di essere anche un partito di programma e di governo. Questo lo vedremo, dipende anche da quante città riusciranno a guidare, probabilmente meno di quelle che lei immagina, saranno probabilmente 5 o 6 città tra i 25.000 e i 70.000 abitanti, sarà comunque un test importante per vedere se il Fronte Nazionale è in grado grado anche di governare. Secondo te, Marco, adesso al secondo turno, domenica, gli elettori potrebbero cambiare un po' il tiro? Che aria si respira? Io penso, ripeto, la Le Pen ha l'obiettivo di conquistare dalle 10 alle 15 città. Di dimensioni medie, secondo me saranno probabilmente 5-6, non di più, anche perché al secondo turno scatta in modo più o meno ufficiale, più o meno dichiarato, il cosiddetto patto repubblicano, per cui il candidato della sinistra o della destra, diciamo istituzionale, chiamiamola così, messo peggio, diciamo, nel risultato del primo turno, desiste a favore dell'altro candidato sul quale fa confluire i voti, quindi diciamo, il Fronte Nazionale, secondo me, in molti casi, nella grande maggioranza dei casi, non riuscirà a ottenere domenica prossima il risultato di ieri. Comunque, per chiudere, Marco, ci manca soltanto un minuto, dico, il grande sconfitto è stato Hollande, il Partito Socialista. Insomma, su questo non c'è alcun dubbio, il grande sconfitto è Hollande, in parte per colpe non sue, nel senso che sicuramente la crisi ha colpito più duramente, più lungamente di quanto era previsto, e questo inevitabilmente si traduce in un voto, diciamo, sanzionatorio nei confronti di chi governa, in parte per colpa sua, perché in questi due anni non è riuscito appunto a dare ai francesi una speranza e una visione politica. Grazie Marco Mussanè da Parigi. Ciao. Grazie, Marco. A voi. Ciao, buona continuazione. Ciao. E subito ci sono state le reazioni di Grillo e Casaleggio, che hanno esultato, però hanno detto: noi alleanze con Le Pen non le facciamo. Salvini, segretario della Lega, ha detto: da Parigi finalmente arriva un vento di libertà. Allora adesso, a proposito del voto in Francia, delle reazioni appunto dei nostri partiti, sentiamo chi è ospite questa sera di Elisabetta Fiorito. Europa 24 notte verso le europee. Buonasera, allora per lo Spazio Europa siamo saliti qui a Montecitorio al gruppo del Movimento 5 Stelle per incontrare la cittadina Vega Colonnese, deputata, membro della Commissione Politiche Comunitarie. Le chiediamo subito, come commenta intanto questa vittoria, questa avanzata del Front National di Marine Le Pen alle amministrative francesi? Significa che i cittadini vogliono rivedere la propria posizione all'interno dell'Europa, quindi ha un senso questo voto. Sicuramente molto distante invece da quello che è il movimento vuole sì la presa di coscienza dei cittadini, però su un percorso. Quindi noi da movimento non abbiamo una direzione che sia di destra o di sinistra, ma è una direzione politica, cioè nel senso di presa di coscienza, di conoscenza e di un percorso di partecipazione. Ma Marine Le Pen dice: Grillo mi odia, non capisco quest'odio, in realtà i nostri partiti sono d'accordo su molti temi a partire dalla lotta contro l'euro e quindi i nostri programmi sono simili. Voi non pensate a un'alleanza con Marine Le Pen? Assolutamente no, però... Perché la odiate? No, non la odio, sicuramente siamo distanti però da quel modo di fare politica. Ripeto, noi abbiamo un percorso partecipato, quindi la nostra battaglia non è esclusivamente contro l'euro, è rivedere la posizione dell'Italia anche all'interno dell'euro, quindi attraverso un referendum che verrà fatto si deciderà se l'Italia deve continuare a stare anche nell'unione monetaria, quindi è un percorso anche di presa di coscienza dell'Italia stessa, del valore dell'Italia all'interno dell'Europa. Questi quindi sono due percorsi completamente diversi. Ecco, però lei dice sempre la Le Pen: ora alleanza tra gli euroscettici d'Europa, per cui voi siete un po' euroscettici, non volete fare però l'alleanza con lei, e con la Lega magari la vorreste fare, proprio perché anche la Lega ha promosso il referendum contro l'euro. Allora, il discorso è questo: noi innanzitutto ci stiamo apprestando a vincere le europee, soprattutto con dei 7 punti ben distinti, e la differenza sostanziale è questa: noi con la Lega siamo differenti, distanti, perché la Lega era presente in Parlamento anche quando si è votato il pareggio del bilancio e noi invece non c'eravamo e abbiamo una posizione nettamente in contrasto al pareggio di bilancio, quindi sono due posizioni sempre diverse. In Europa sicuramente il Movimento sarà un'innovazione, perché presenterà anche un'innovazione nella rappresentanza all'interno dell'Europa. Questa è una cosa che si vedrà in seguito. Adesso abbiamo dei punti definiti e dovremo vedere con gli altri movimenti o partiti che sono presenti in Europa se ci sono effettivamente delle convergenze. Il primo punto, referendum per la permanenza nell'euro. Secondo punto, abolizione del fiscal compact, adozione di Eurobond, alleanza tra i paesi mediterranei per una politica comune, investimenti, innovazione, nuove attività produttive esclusi dal limite del 3% annuo di deficit di bilancio. Annuncio una mozione che verrà presentata domani in aula a prima firma Castelli. Finanziamenti per attività agricole e di allevamento finalizzate ai consumi nazionali interni, abolizione del pareggio di bilancio. Questa praticamente è una dichiarazione di guerra a Angela Merkel. Sì, decisamente. Allora, ringraziamo Vega Colonnesi, ricordiamo, deputata del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Politiche Comunitarie, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione. La ringraziamo. Grazie mille a voi. E domani per lo Spazio Europa invece sentiremo la Lega. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ecco, adesso guardavo ancora un messaggio di Max, perché se uno vota il Fronte Nazionale deve essersi un disagio, cioè comunque una situazione negativa, perché è euroscettico e perché dice che le cose vanno cambiate rispetto a come vanno. Ma adesso io vi devo lasciare, perché ci sentiamo poi tra poco per ricordarvi i fatti principali. C'è sempre la pagina di Effetto Notte su Facebook.